Lucia non è, cara bella donna rosa. Lucia non è, madre attenta premurosa. Lucia non è, è stanca a sera si riposa. Lucia non è, mani in pasta alla farina. Lucia non è, cara bella donna rosa. Lucia non è, madre attenta premurosa. Lucia non è, stanca a sera si riposa. Lucia non è, pasta alla farina. Contadino, stanco a sera e si riposa.